Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E vogliamo andare a governare? No? Volete andare a governare anche con quelli di Casa Pound che sono in questa piazza? Con chiunque sia in questa piazza, sia democratico, pacifico, non violento e la pensi come noi, da destra a sinistra. Siamo qua! Salvini è il vostro leader? Il vostro leader? Lo sai la sovranità! Assolutamente! Leader da contrapporre a Matteo Renzi! Non ce ne sono altri! Oggi leader in Italia! Di Matteo Salvini ci piace l'onestà e anche il coraggio, perché di fatto è l'unico che dice le cose così come stanno. L'unico. E ovviamente con Casa Pound. Ci siamo parlati, abbiamo fatto un accordo, noi aderiamo, diciamo, a questo grande progetto che oggi qui è rappresentato in maniera plastica, però non c'è stato bisogno neanche di trattare nessuno dei punti politici, perché i punti politici sono esattamente i nostri e quelli che portiamo avanti da anni. Noi oggi credo che saremo quasi 5.000. Oggi 5.000. Oh, sì, certo, noi siamo... Oggi ho veramente bisogno di una mano da parte del mio pubblico. Sono in un momento di confusione, capita. Sarà l'età, sarà l'appannamento. Oggi dovrete aiutarmi in un gioco che sembra ormai logorato dall'abuso che ne è stato fatto, ma è fondamentale per me questa mattina. Dovete farmi capire cosa è di destra e cosa è di sinistra, perché io ho perso il senso, pur avendo probabilmente attraversato persone, ideologie, momenti storici, situazioni di crisi. Io questa mattina non so più rispondermi alla domanda cosa sia di destra, cosa sia di sinistra. Quindi voglio ricominciare da capo, voglio ridefinire le categorie, categorie basiche, radicali, senza sfumature. Cos'è di destra e cos'è di sinistra? Non so, Dio, padre e famiglia sono tre cose di destra, non ci piove. Dio, padre e famiglia, più di destra di così. Però cominciano ad essere anche legati comunque a dei riferimenti portati in campo da persone di sinistra. Libertà, fraternità, uguaglianza, valori giacobini, rivoluzionari, tutto l'illuminismo si è basato su questi valori, l'illuminismo, quello che ha determinato il grido di fine dell'Ottocento, Dio è morto, e Dio è morto, Dio mio, ci strappiamo tutti i capelli, dove sono finiti i valori, i riferimenti trascendentali e via dicendo. Beh, questi discorsi che sembrano di ampio respiro in realtà oggi si riducono in... Ma i fasci romani di Casa Pound, perché fanno il saluto romano a Salvini, che è una persona della Lega, vuole fare l'Italia divisa in tante zone disparate e spezzettate, quando in realtà il fascio ha sempre pensato che la patria è una, unica, indissolubile, i sacri confini, come la Lega vuole fare una repubblica al nord, staccarsi dal sud e via dicendo. Poi il sud è sempre stato legato comunque ai valori di destra. Landini che dice che il Papa è di sinistra, la persona più sinistra è il Papa. Come si fa a dire che un Papa è di sinistra? Un Papa non potrà mai essere di sinistra, rappresenta la Chiesa, un'istituzione, e dei riferimenti ben stretti comunque a qualcosa che nulla a che fare con la libertà di pensiero, con il riprogettarsi ogni giorno, con fare della propria vita il proprio progetto individuale, che dovrebbe essere il pensiero di sinistra. Quindi mi dite questa mattina voi, tre cose di destra, tre cose di sinistra, ma che siano inequivocabili, che nessuno può fare le sfumature, i ritorni di fiamme e via dicendo. Voglio capire cosa sia di destra e cosa sia di sinistra. 800240024. E non si vergognano, eh? Non si vergognano. Diga? Sì, dico. Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene? Tutta sta roba. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, ah, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Senta, ma sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. Questa è la radicalizzazione di un film. Virzì, le... ferie d'agosto, nella stessa isola ci sta gente chiaramente di destra, chiaramente di sinistra, quando ancora le categorie potevano essere spregevoli, potevano essere ricalcare stereotipi, però erano chiare, c'era quello di sinistra, radical chic, quanto volete, però di sinistra, inequivocabile, sinistra, sì un po' snob, magari il fatto che fosse anche benestante gli faceva passare le ferie in un luogo ameno, al di là del fatto si pensi che uno di sinistra deve per forza condurre uno stile di vita proletario. Essere di sinistra non significa essere proletari, essere di sinistra bisogna dire avere una mente aperta, non avere punti punti di riferimento categorici. Silvio Orlando era il personaggio chiave dell'uomo di sinistra, e altrettanto i quattoni di destra erano proprio di destra, tanto che uno tira fuori la pistola e spara ferendo un povero ragazzo africano, spregevoli del territorio, non gliela importava niente, erano quella sorta di virulenta e gagliarda anima guerriera e combattente del barbaro, di colui che dice: qui è roba mia, io sono di destra, io sono portatore di un valore, il mio valore è quello che passa sopra gli altri. Qui era chiaro, ma in realtà se no non è chiaro. Quindi vorrei capire questa mattina dal pubblico cosa è per voi veramente di destra e veramente di sinistra. Due cose inequivocabili, una di destra e una di sinistra, almeno è un punto di partenza da cui possiamo ripartire. 800 24 00 24. Papa Francesco rivendica il copyright della cura dei poveri. È nel Vangelo e nella tradizione della Chiesa, sottolinea. Non è un'invenzione del comunismo e non va ideologizzata. E Marx dice: vedi, io nella mia vita ho detto che gli uomini sono tutti uguali. E questo, caro Carlo Marx, l'ho detto prima io. E poi? E poi ho detto che i ricchi sono degli esseri non giusti e che dovevano dare i soldi ai poveri per farli stare meglio. E questo pure, caro Carlo Marx, l'avevo detto prima io. Bravo. E poi? Questo è Benigni nel Papocchio, è uno degli elementi maggiori di confusione. Benigni è di destra o di sinistra? Boh, una volta era di sinistra, fatto il film Berlinguer ti voglio bene, il bestemmione che durava mezz'ora, era comunque una persona di sinistra. Oggi sembra più a destra di un sacrestano che da vent'anni serve messa, quindi è difficilissimo definirlo. Abbiamo un ascoltatore, Stefano. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Ci puoi aiutare questa mattina? Sì, dunque, io sono laureato in scienze della comunicazione e decisi di fare la tesi di laurea proprio andare oltre la destra e la sinistra. Allora, dimmi soltanto due cose, una di destra e una di sinistra, vediamo se lo studio ti ha giovato. Sicure? Che ne so, la puzza dei piedi, di destra o di sinistra? No. Allora, rispondi. È proprio, la mia tesi di laurea era proprio nel respingere, diciamo, quelli che erano, diciamo, dei luoghi comuni, nel senso che la giustizia è di destra e di sinistra, o l'ecologia di destra e di sinistra, nel senso... Ti rispondo, la giustizia è destra o sinistra, secondo se la giustizia è basata su principi superiori, metafisici, di destra, la giustizia basata su le regole che regolano, che determinano il rapporto agli uomini, è giustizia di sinistra. Questo ti ho risposto. Ma io mi prendo un attimino le distanze, nel senso che la giustizia è una sola. No. La giustizia è una sola e poi ognuno la può interpretare nella sua maniera. Parola all'origine, cioè ciò che è giusto è giusto in assoluto. Tornando un attimino al punto, secondo me, ecco, parlare di destra e di sinistra oggi 2015 è assolutamente diverso da parlare di destra e sinistra 15 anni fa o 30. Ho capito, ma non può essere ambiguo come il vestitino bianco, oro, blu e nero su cui ci stiamo impazzendo in internet, che ognuno veda a modo suo. Ci saranno rimaste due cose, una di destra e di sinistra, che non si sbaglia, che certo. Ad esempio, certo. La differenza è di destra, l'esaltazione della differenza, che è una valorizzazione dell'individuo, è una cosa di destra, però ripeto, mentre invece il cercare di portare le situazioni al pareggio, diciamo, nonostante i punti di partenza iniziale, è un'idea tipicamente di sinistra. Ma la biodiversità è di sinistra, non è di destra. È la biodiversità di sinistra, la biodiversità, evitare le grandi culture. Questo è il grosso equivoco. Ecco, e qui appunto dove cade anche il discorso, quindi sposa quello che è la mia tesi, che sono, diciamo, luoghi. La diversità è di destra, perché noi, vabbè, io ho votato Casa Pound, quindi ho una mia visione. Sei condizionato, cerca un attimo di uscire dal tuo punto di vista. Da che vuol dire la diversità di destra? L'elogio della differenza è una cosa di destra, nel senso che valorizziamo le differenze anche di altre persone, dell'umanità, diciamo, ma non come un corpo unico. Ogni singolo individuo ha una differenza, una sua peculiarità, e cerchiamo di non è proprio della sinistra difendere le minoranze, ricercare le culture, l'etnia, le cose arcaiche? Sono le signore di sinistra, mica quelli di Casa Pound che vanno a ricercare le etnie perdute. Loro pareggerebbero tutto e farebbero tutto un grande malloppo con la bandiera sopra loro, penso, non lo so, se sono di destra, se no non sono di destra. Allora, l'uomo di destra è conquistatore, tabula rasa, non deve passare nulla, la penso così, veramente. Allora, io mi rifaccio a un altro pensatore che può essere qui, nel senso classico della parola, definito di destra, e della Pino Rauti, che ho avuto anche l'occasione. Vabbè, ma dai, ma stai passando di persone che non passeranno mai la storia. Parliamo di grandi nomi, scusa, che c'entra Pino Rauti? Tu stai parlando, scusami, caro, chiedevo un discorso di grande respiro. Dimostri che non puoi fare un discorso di respiro, ti fermi al tuo piccolo Pantheon. Io sto parlando di visione generale dell'umanità, del pensiero di destra inteso come pensiero metafisico, visione cosmica, l'uomo al centro di una serie di riferimenti, di simbolismi, tutte queste cose. Citi Pino Rauti, dai, fatti una buona giornata. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io premetto che secondo me la sinistra istituzionale non esiste più, oggi la sinistra è solo extraparlamentare. E secondo me la differenza... Poche chiacchiere, una cosa di destra e una cosa di sinistra, Andrea, dimmi una cosa... La lotta di classe è sicuramente di sinistra. Ok, e di destra cosa è? Di destra è il contrario della lotta di classe, cioè il mantenere il classismo e mantenere i privilegi di padroni o potentati vari. Beh, siamo ancora in epoca pre-marcia su Roma. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno, non mi chiede anche a me una cosa di lei l'ho fatto ascoltare come il confessore. Prima gli ho dato un assaggio di quello che è il sentire generale, poi voglio lei delle elaborazioni un pochino più complete. Ricordo che Edoardo Novelli insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3, ha scritto diversi saggi sul rapporto tra TV e politica. Allora, da quello che ha sentito, che impressione si è fatta, professor Novelli? Beh, che grande la confusione sotto il cielo, per dire qualcosa di sinistra, Mao Zedong aggiungerebbe quindi la situazione ottimale. È ovvio che alcune categorie sono completamente saltate, ma non è un problema di parole, non è un problema, è un problema il fatto che sono venuto meno quelli che erano dei grandi riferimenti ideologici che hanno orientato quantomeno tutto il Novecento, sia la prima parte sia la seconda, dando appunto, permettendo a Gaber di fare una meravigliosa canzone che spiegava in maniera chiara che la doccia era di sinistra e il bagno era di destra, ma perché c'era era una sorta di parodia, no? C'erano delle grandi riferimenti ideologici da cui derivava una visione del mondo, anche degli stili di vita, gli abbigliamenti, ma ci ricordiamo che c'era l'abbigliamento di destra, come l'abbigliamento no? di sinistra, l'eschimo verde di sinistra, certo. E la giacca corta verde quasi militare di destra, esatto, oppure il college di destra, le scarpe, certo, c'erano le Clark e le college, questo c'era. Ma allora era chiaro, non ci si sbagliava, sì, le città erano divise, altro che le mappe di Google, esatto. Erano divise, c'erano le poste, i posti stanno quelli di destra e i posti quelli di sinistra. Chi sconfinava creava conflitto. Sì, esattamente, questo però era così anche se vogliamo una sorta di divulgazione di una contrapposizione totale, ideologica, frontale, sì. che non accettava alcun tipo di mediazione in nulla. Oggi è venuta meno le grandi ideologie, insomma, ha saltato i muri materiali, fisici, ma anche quelli ideologici. È ovvio che le parole che sono... Scrive un ascoltatore, quello di Casa Pound ti ha sputtanato, ignorante. Quello di Casa Pound ha detto una cosa interessante, lui sì. Sosteneva l'elogio della differenza, quindi la differenza, forse a sinistra c'è invece il rispetto delle differenze, però ecco, queste sono dei distinguo, però è ovvio che è venuto in meno l'ideologia anche le parole che le rispecchiavano, no? Che erano la loro traduzione e che molto spesso erano degli ancoraggi che permettevano le grandi parole d'ordine, sono saltate e quindi le posizioni, però attenzione, non è sempre stato tutto così. Io mi ricordo che nel 48 c'era un meraviglioso manifesto del Partito Socialista con Gesù, che ho scritto che era il primo socialista della storia, c'era la figura di Cristo, il primo socialista della storia è stato lui, vota Fronte Popolare, quindi insomma una sorta, si parlava di socialismo evangelico, se qualcuno se lo ricorda, sì, l'ha visto, no? Certo. Quindi insomma che il fatto che il Papa, proprio per la sua visione della carità, la solidarietà, l'attenzione agli ultimi, e tutti questi elementi che in qualche modo fanno parte o facevano parte del DNA dell'ugualitarismo di sinistra, della visione socialista, della visione comunista con le dovute differenze, insomma alcuni punti di contatto. Sì, ma c'è stato un periodo in Italia, per quello citava Pino Rauti, il ragazzo molto giovane, in cui c'erano frange di estrema destra che inneggiavano a Gheddafi, leggevano Mao Zedong, i famosi fascio comunisti, ma veri allora, i nazi maoisti, ecco, sì. nazimaoisti, che non si capiva bene, che però era sempre il desiderio, il grande frisson di sentirsi anche appartenente alla frontiera opposta, una sorta di avere in comunanza qualcosa con i miti, con i nemici, le leggende che ne so, esistevano legami segreti fra gli ismaeliti e i cavalieri crociati, che in realtà lottavano tutti per una sorta di principio superiore che andava, sempre l'idea che ci fosse qualcosa di nascosto al di sopra delle frammentazioni esteriori che sono soltanto per il popolino, quello che capisce poco. Questo è molto di sinistra, ma anche molto di destra. Melog, cronache meridiane. No, sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza. Vabbè, e qui. Questi erano i primi dubbi, che però piacevano tanto, andavano molto di moda. Nanni Moretti fu un modello di una certa sinistra, diciamo, metà anni 70 fino ai primi anni 90. Poi anche lui ha cominciato un'altra sua eclissi e è finito in altri liti. Ma è chiaro che non può sempre rimanere persistente un modello. Mi arrivano tanti messaggi, la maggior parte sono di insulti, perché sono delle categorie intoccabili. Ecco, l'ottusità è parimenti distribuita a destra e a sinistra. Il pensiero ottuso, il pensiero tetragono, il pensiero che non cambia mai, che non si mette mai in discussione, è sia a destra che a sinistra, quindi questa è una categoria neutra. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Cos'è buongiorno. Di destra e cos'è di sinistra? L'omofobia è sicuramente di destra. Sì, anche se diciamo tutti i regimi dittatoriali di sinistra hanno sempre perseguitato gli omosessuali, diciamo. Sì, ma questo non vuol dire, fa il discorso che faceva prima, l'ottusità è distribuita a destra e a sinistra. E la destra ha avuto, ne so, eroi come Mishima, che era palesemente un omosessuale, per dirle. Sì, ho capito, però io dico l'ottusità, come diceva probabilmente Moretti, è distribuita a piene mani sia a destra che a sinistra. Diciamo però... che oggi diciamo, l'omofobia oggi è rappresentata in maniera palese come pensiero di destra conservatore e vissuta in maniera sottile, autocolpevolizzante e a volte anche strisciante anche a sinistra, perché diciamoci la verità, esiste così, è sempre comunque fastidioso. Comunque grazie Maria. Buongiorno. Allora, per me di destra è il privilegio e il pregiudizio. Beh, la sinistra è piena di pregiudizi, scusi. La sinistra è il pregiudizio esemplificato. Infatti, per cui volevo dirle che in effetti, se vogliamo vedere, veramente di sinistra sono pochissimi. Ma lei, sì, però sono categorie molto vaghe. Il privilegio di che? Mi dica due cose concrete. Il mattarello la pastamatica. Il privilegio del denaro, il privilegio della posizione sociale, il privilegio, le faccio un esempio. Mio marito afferma di essere di sinistra, è medico, cerca sempre di saltare le code della ASL, degli ospedali, eccetera. E gli dico sempre perché un metalmeccanico deve aspettare, tu no. Ecco, quello. Quindi la paraculaggine di destra. La paraculaggine spesso è di destra, anche perché, ma anche di sinistra, i privilegi, figuriamoci, fra amici, compagni, nelle amministrazioni. Allora non sono cioè a Roma sta venendo fuori sinistra. Che c'erano fior di appartamenti con vista, ma certo, Colosseo, non sono di sinistra. A 10 euro al mese a persone di sinistra vengono date le amministrazioni. Ma infatti non sono di sinistra, Nicoletti, sono più di destra di quelli di Casa Pound, certi. Vedi che però è difficile. Edoardo Novelli, torniamo al punto, vediamo oggi qual è la grande scaturigine dell'ambiguità. Secondo noi è la maniera in cui viene trattata televisivamente la politica. E oggi è il regno dell'ambiguità, non si capisce più bene. Per andare bene tutti, Salvini è diventato un personaggio perché lo chiamavano tutti i talk show, perché faceva ascolto. Quindi dopo un anno che va in giro dappertutto è diventato un personaggio, anche se non è che dica cose originali. Sì, non so se lo chiamavano perché faceva ascolto o ha iniziato a fare ascolto e quindi a prendere consensi perché lo chiamavano. Sicuramente Salvini è stato chiamato perché in quella che è la rappresentazione televisiva della politica, che non ha nulla a che vedere con la politica reale, è costruita su personaggi, su funzioni. Quali sono gli elementi forti? Le felpe, le magliette? Lui funziona Insomma, lui innanzitutto si è trovato in una... lui è stato molto bravo a guidarla una certa situazione. Lui ha stravolto la Lega, cioè ha cambiato DNA a un partito senza fare un congresso, senza nessun atto fondativo nell'arco di poco tempo, partendo da un partito che era stato devastato da una, da una crisi di tipo diciamo giudiziaria. Ma anche dinastica, c'è stato proprio un problema dinastico. Sì, proprio è uscito il peggio del peggio, il tesoriere anche lì, Gioielli, il figlio, il Trota, i soldi. Ha stravolto il partito, ricordiamo che era un partito che la Lega, la Roma ladrona, i riti celtici, i matrimoni celtici, c'è un immaginario e anche si era costruito un pantheon ideale assolutamente. Però ecco, forse però su questo pantheon celtico, ecco il punto di contatto con la destra, diciamo, più radicale. Non è il celtico, secondo me, l'elemento di contatto che c'è è che, non so se questo è di destra o di sinistra, ma comunque buona parte c'è l'idea dell'io, dell'individuo, che mi connoto all'interno del mio branco, che poi può essere la mia comunità, che può essere la mia etnia, che può essere la mia razza, però un elemento forte, identitario, l'io e il mio io allargato. Ma scusa, ma allora dov'è la difesa della diversità che mi diceva il ragazzo di ma casa infatti Paolo? Non c'è la difesa, ha detto che c'è elogio delle differenze, ma le differenze sono lontane, ognuno a casa sua. Elogio di me in quanto differente. Ognuno lontani, tu puoi fare, ma al di fuori, fuori di qua, la mia razza, la mia terra, il mio territorio. E in questo c'è un punto d'unione tra l'idea della Lega, no? Che si connotava, prima era i nord continentali, poi si è allargata, adesso è l'Italia contro l'Europa. Cioè questa idea di doversi sempre connotare per antagonismo contro qualcun altro. La tua identità la trovi facendo quadrato, facendo... Senta, torniamo Novelli, che è molto interessante, non abbiamo ancora dipanato la matassa. Ringrazio Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti, sono di destra o di sinistra? Non lo so, non l'ho mai capito. A domani.